Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, non so quanti di voi siano ebrei, ma segnalo oggi un libro particolarmente interessante per questa comunità, per questo gruppo sociale così importante nella storia del nostro paese, ma interessante per tutti. Il libro è di Riccardo Calimani, che è un ingegnere e filosofo della scienza, grande esperto della storia degli ebrei, e si intitola Storia degli ebrei italiani. Questo è il primo volume che vi presento, dalle origini al XV secolo, e pubblicato da Mondadori, 632 pagine, 28 euro. Nel libro Calimani parte da Roma, naturalmente, e dalle parole che nel Talmud sembra in qualche modo mettere in relazione la nascita della città con la storia del popolo di Israele. Poi, naturalmente, col passare degli anni e dei secoli diventa essenziale il rapporto tra gli ebrei e la Chiesa, e in particolare con l'Istituto Pontificio. All'interno di questo rapporto l'autore legge l'esperienza delle crociate, che segnarono un momento di grande intolleranza anche nei confronti degli ebrei, e poi tante altre pagine importanti sulla presenza ebraica nel nostro paese, il rapporto con l'Inquisizione, il crescere del pregiudizio antisemita, la dislocazione degli ebrei nelle varie regioni. Per concludere poi questo primo volume con due aspetti molto interessanti. Il primo, quello che affronta il tema del rapporto tra gli ebrei e prestito, tra economia e teologia, come intitolato il capitolo di Calimani, e il secondo aspetto, che riguarda invece il ruolo intellettuale importante che svolsero i rappresentanti di quel popolo anche nella cultura di quella che poi sarebbe diventata l'Italia. Ma sentiamo su questo l'autore. Buongiorno a Riccardo Calimani. Buongiorno a lei. Allora, Riccardo Calimani, partiamo da una data fatidica di cui quest'anno, tra l'altro, abbiamo ricordato il 1700 anniversario, cioè il famoso editto di Costantino, o cosiddetto editto di Costantino del 313, un atto, lei scrive, le cui conseguenze per la vita degli ebrei sarebbero state gravide di insidie per secoli e secoli. In che senso quell'editto segnò, contribuì a segnare il destino degli ebrei? Nel senso che il cristianesimo diventa qualcosa di politico e finisce per staccarsi dal mondo ebraico, e quindi da quel momento in poi cambia un po' la storia. Poi lei affronta il tema, a proposito del rapporto con il cristianesimo, un lungo capitolo dedicato alla Roma pontificia fino al XV secolo, quindi diciamo il papato fino al 1555. In questo periodo la convivenza, lei scrive, non fu mai messa in pericolo. Ecco, quali furono le caratteristiche dominanti di questo primo lungo rapporto con la Chiesa cattolica e con il papato? Un rapporto ambiguo che nel tempo è cambiato gradualmente e sottilmente. La Chiesa all'inizio ha voluto essere il verus Israel, però non poteva prescindere da Israel, e quindi rapporto delicato, talvolta conflittuale, ma sempre fortemente interconnesso, con momenti buoni e momenti meno buoni. Ecco, un altro capitolo all'interno di questo rapporto è dedicato al tema della Santa Inquisizione romana, che nasce contro gli eretici, ma a un certo punto si occupa anche degli ebrei, e lei in questo capitolo ricorda anche la posizione di San Tommaso sugli ebrei. Che cosa rappresentò il lascito di quel santo? San Tommaso era molto aperto nei confronti degli ebrei, perché capiva benissimo che il mondo cristiano non poteva prescindere da un contributo ebraico. Però poi se ne sono dimenticati molto presto. E infatti nasce un pregiudizio antiebraico molto forte. Lei dedica un capitolo a questo tema, l'accusa del sangue, l'omicidio rituale. La paura contagia l'Italia. Ecco, che paura fu questa contro gli ebrei? Il mondo in generale ha due componenti interessanti. La necessità dell'obbedienza e la paura sono due componenti della civiltà umana. L'accusa di omicidio rituale è sempre stata rivolta a chi è diverso e a chi è sconosciuto. Nel caso ebraico, dopo le crociate, si temette una vendetta ebraica, e per quello che nasce l'idea che possano vendicarsi, e l'omicidio rituale fa parte della paura e di quest'altra paura della vendetta. Veniamo alla distribuzione geografica degli ebrei nel nostro paese. Cominciamo nel nord. Nel nord, le scrive, ci fu una presenza silente e radicata. Sì, ma di piccoli numeri. La vera presenza forte fu nel sud, in Sicilia, dove gli ebrei sono il 5% della popolazione globale, in Calabria, in Puglia. Poi, quando ci fu, sarà, adesso il libro arriva al 1500, quindi fino a quel momento le cose non cambiano, ma poi quando ci sarà la grande espulsione dalla Spagna e dai domini della Spagna nel sud tutto cambierà. Ma in Sicilia gli ebrei parlavano un dialetto ebraico-arabo. Ecco, in Sicilia le schive erano tollerati ma discriminati, quindi la loro posizione non era ideale, anche forse una certa mitizzazione su Federico II è eccessiva. Sì, ma vede, tutti i popoli sono tollerati ma discriminati. Purtroppo il destino dei popoli nella storia non è mai stato felice. Del resto c'è una celebre frase, ma non mi ricordo di chi, che dice: i popoli felici non hanno storia. Quindi, voglio dire, il mondo ebraico ha avuto particolari attenzioni e discriminazioni, ma da un certo punto di vista era un mondo democratico che si presentava davanti al re e discuteva dei propri diritti. Altri, umili e poveri, non ebrei, non avevano questa organizzazione e non potevano farlo. Quindi in questo destino ci sono molte luci e molte ombre. Nella storia degli ebrei, credono solo quelli italiani, conta molto l'attaccamento alla propria identità. Lei scrive: non vi è alcun dubbio, il loro attaccamento culturale, religioso, mentale ed esistenziale al giudaismo è stata la forza interiore che permise agli ebrei di resistere a così numerose difficoltà. Ecco, questo attaccamento quindi si manifesta fin dall'inizio, diciamo. Un attaccamento che si manifesta sin dall'inizio in varie forme, ma è sicuramente la sorgente di tutta la storia. Un forte monoteismo, una religione legata all'eticità, all'etica, una religione che non aveva dogmi, una religione che non aveva principi di autorità evidenti. È una storia, se vogliamo, da capire e da affrontare momento per momento per cogliere l'evoluzione e la dinamica di questo straordinario destino. Ecco, a proposito di questo straordinario destino, c'è una specificità italiana nell'esperienza degli ebrei italiani? Sì, la specificità è che l'Italia, essendo al centro del Mediterraneo, dal punto di vista della elaborazione culturale, ha saputo guadagnare da nord a sud, da est a ovest, mille contributi e assimilarli. E quindi c'è una ricchezza culturale, vorrei dire pluralista, ma di grande interesse. Secondo volume lo aspettiamo per? Ma io spero molto presto, perché guardi, è un'impresa di così difficile. Diciamo che del secondo volume ne ho fatto già circa una metà, forse un po' di più, e in ogni caso è quello che completa l'itinerario, perché arriva fino ai nostri giorni, e quindi ci sono momenti straordinari. Oltre all'era dei ghetti, che è l'oppressione, c'è anche il momento della liberazione e dell'emancipazione. Insomma, diciamo che riserva anche altrettante incredibili avventure. Bene, allora buon lavoro a Riccardo Calimani, autore della storia degli ebrei italiani. Buona domenica. Grazie a lei, buona domenica. Sulla sorte degli ebrei italiani nel periodo più buio e tragico della nostra storia segnalo il libro di Gianna Pontecorboli, che è una giornalista genovese, corrispondente dagli Stati Uniti ed esperta di politica americana. America, Nuova Terra Promessa, 192 pagine, 15 euro, è pubblicato da Francesco Brioschi, editore. In questo libro si parla dei tanti ebrei italiani, furono circa 2000, che si rifugiarono negli Stati Uniti dopo le leggi razziali del 38. In quel paese i nostri connazionali non perdono i collegamenti con la madrepatria, ma quasi sempre trovano negli USA una nuova patria che spesso dà loro fama e fortuna. Tra queste famiglie, per esempio, ci sono quelle di due premi Nobel, Salvador Luria e Franco Modigliani. Ma accanto a loro ci sono poi tanti italiani che fecero fortuna. Una figura mitica, per esempio, sarà quella di Leo Castelli, che diventa il sovrano dell'arte contemporanea a New York. E poi naturalmente ci sono anche coloro che non fecero questa grande fortuna. Ci sono quelli che, scrive l'autrice, si dovettero accontentare di un lavoro di cucitrice nel Garment District di New York, di venditore di pentola a domicilio, di apprendista di bottega di un'azienda di trasporto. E tra loro, tra questi ebrei, c'erano di tutti, c'erano fascisti, antifascisti, soltanto una minoranza, scrive l'autrice, era ormai legata alle pratiche religiose e all'ortodossia ebraica. Il successo, conclude Pontecorboli, c'è stato, se non per tutti, certo per molti, ma è costato anche un prezzo altissimo in coraggio, determinazione, rinunce e sacrifici, e di questo si parla in questo libro, raccontando appunto molte avventure di queste famiglie, avventure che vengono presentate in una serie serie di interviste che l'autrice ha condotto tra il 2007 e il 2009 per ricostruire appunto le grandi difficoltà che queste famiglie dovettero affrontare anche per raggiungere gli Stati Uniti. Il libro sarà presentato martedì prossimo a Milano in via Santa Valeria 3 alle ore 18 da Renata Brogini e Sandro Gerbi. E l'esperienza di un esponente di una famiglia ebraica di origine sefardita, iniziata nel campo di Bergen-Belsen e poi culminata nel successo professionale faticosamente conquistato a Milano come medico pediatra, è raccontata da Sultana Razon nel libro Il cuore se potesse pensare, una storia d'amore, ricerche e battaglie, pubblicato da Rizzoli, 314 pagine, 17,50 €. È una storia interessante per le drammatiche vicende familiari e per la descrizione della Milano febbrile del dopoguerra, nella quale la ricerca scientifica e medica riassume una grande importanza che poi segnerà anche il futuro della città. C'è anche l'amore, naturalmente, in questo libro di Sultana Razan, l'amore per Umberto Veronesi, che la dottoressa sposerà nel 1961. E un grande scrittore ebreo è Shmuel Joseph Fanyon, di origine galiziana, che fu premio Nobel per la letteratura nel 1966. Di lui Adelphi pubblica Nel cuore dei mari, 154 pagine, 12 €, curato da Ariel Rathaus, il quale ci spiega che l'opera è particolarmente caratteristica della cultura ebraica anche per la ricchezza di rimandi alla Bibbia e a consuetudini ebraiche. È un'opera del 26, considerata tra i capolavori di Fanyon, con molti riferimenti autobiografici, e si parla di 10 ebrei che si mettono in viaggio dal villaggio galiziano dove era nato lo stesso scrittore nel 1888 verso la terra promessa. Sono guidati da un apparente straccione, in realtà sapientissimo e dotato di una fede assoluta che li condurrà al cospetto della presenza divina, come si intitola l'ultimo capitolo. I 10 supereranno molte prove, compresa quella iniziale di un confronto con Satana che vuole a tutti i costi dissuaderli dall'intraprendere questo viaggio, e finalmente prendono il mare, transitando anche in una città che allora appare con dei contorni quasi fiabeschi, è quella che loro chiamano Stambul, l'antica Costantinopoli, dove, scrive Fanyon, il sultano governa stando sdraiato sul letto d'avorio che gli induce sonnolenza, talvolta dorme mezzo anno, talvolta un anno intero. Egli ha 365 ministri, tanti quanti giorni dell'anno, un ministro per giorno, e a ognuno di loro, dopo che ha espletato il suo incarico, il re dona un filo d'oro. Quello capisce subito che è venuta la sua ora di congedarsi dal mondo, si ritira a casa sua e si strangola, mentre il re guarda dalla finestra e batte le mani contente. Come vedete, quasi una favola che illustra appunto la fede degli ebrei nel recupero della terra promessa. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Domani ricorre il cinquantenario della scomparsa di uno dei personaggi certamente più amati del Novecento, cioè Papa Giovanni XXIII. E allora vi voglio in questa occasione segnalare due titoli. Il primo è un libro curato da quello che fu il suo segretario storico, Monsignor Loris Capovilla, classe 1915, un'età benissimo portata dal prelato, il quale accompagnò Papa Giovanni per tantissimi anni, perché ne fu segretario fin dalla più giovane età. Il suo libro si intitola Purché l'alba nasca, colloquio con Papa Giovanni, pubblicato da Grafica e Arte, 160 pagine, 18 €. Troviamo nel libro molte immagini e molte testimonianze su quel pontefice, tra cui questa dello scrittore Luigi Santucci, che è di 30 anni fa, del 1983, che fa comprendere il significato di quel pur breve pontificato e anche anticipa alcuni temi che ritroviamo forse nella figura di Papa Francesco. Cadde immediatamente con lui, con i suoi primi espansivi abbracci, le battute scherzose, quel diaframma che per tanti secoli ci aveva divisi dal Papa sovrano o arcangelo o marziano. Con lui la Chiesa cessava di essere tabernacolo o fortezza, e altresì società perfetta per diventare, come ispiratamente la definirà il Concilio, popolo di Dio, cioè una turba di giusti e di peccatori in cammino verso la salvezza. E insieme alla ricerca dei fratelli che il grande sogno dell'ecumenismo vuole ricomporre in una sola famiglia. E Monsignor Capovilla conversa con Ezio Bolis, che è un sacerdote nonché direttore della Fondazione Papa Giovanni XXIII, nel libro I miei anni con Papa Giovanni XXIII, pubblicato da Rizzoli, 216 pagine, 17 €. Come vi dicevo, il sacerdote, ora arcivescovo, Capovilla ebbe una lunga frequentazione come segretario di Papa Giovanni prima che diventasse pontefice, anzi l'incontro avvenne a Venezia nel 1950. Da lì appunto cominciò un lungo percorso di collaborazione con Roncalli. Roncalli diventerà poi patriarca di Venezia nel 1953 e in quell'occasione al cardinale che chiedeva referenze su questo pretino che aveva conosciuto, appunto Loris Capovilla, rispondono che purtroppo quel pretino godeva salute malferma e che sarebbe morto di lì a poco. Invece Monsignor Capovilla ha quasi 100 anni ed è ancora qui tra noi, vivo e vegeto, e gli facciamo tanti auguri. L'altro titolo è pubblicato da Mondadori ed è una raccolta di pensieri di Giovanni XXIII. Si intitola Le parole dell'anima, 122 pagine, 23 euro. Il libro è curato da Giuliano Vigini. Sono scritti dell'ultimo periodo, quello appunto del pontificato, nei quali, scrive il curatore, l'uomo diventato papa sembra confessarsi davanti ai fedeli al mondo con la stessa purezza e profondità dei tempi lontani, come se nulla negli anni fosse cambiato in lui, nella mente, nel cuore, nelle situazioni e nei ruoli. Era animato, spiega il curatore Giovanni XXIII, da una profonda letizia spirituale che lo stesso Giovanni XXIII riconosce come carattere fondamentale delle anime sante. Un'insolita lettura del magistero pontificio, in questo caso però di Giovanni Paolo II, è quello di una ex guardia svizzera che negli Stati Uniti è diventato un imprenditore di successo, Andreas Widmer. Il libro si intitola Il Papa e il Manager, le lezioni di leadership di Giovanni Paolo II, è pubblicato da Rizzoli Etas, tradotto da Gianfranco Chizzoli, 214 pagine, 17 euro. Il libro nasce dalla esperienza biennale al fianco del Papa come guardia svizzera. In particolare Widmer si dedica proprio alla sicurezza personale del pontefice, e in questo libro l'autore vuole aiutare i cristiani nella loro opera di dirigenti, amministratori delegati, imprenditori o titolari di piccole imprese, così scrive egli stesso, nell'apprendimento di alcuni principi basilari della leadership. Gli insegnamenti ricavati appunto dall'esperienza di vita assieme a Giovanni Paolo II sono riassunti in 9 capitoli, ciascuno dei quali è una sorta di lezione ricavata da quell'esperienza di vita. Uno di questi capitoli, per esempio, è dedicato all'importanza di formare la squadra. Il Papa, scrive l'autore, non formò il gruppo dirigente ricorrendo a uomini che fossero suoi cloni, al contrario, riunì individui dotati di personalità e background nettamente differenti. Era questo che contava per il Papa, che fossero in grado di fare il loro lavoro e di farlo bene. Poi, aggiunge l'autore, una volta nominati tutti i membri del team, Giovanni Paolo II fece leva sui loro punti di forza. Il Papa era consapevole della loro debolezza, ma lui scelse di aiutarli a focalizzarsi sulle loro buone qualità e a svilupparle invece di deplorare le loro debolezze. Vediamo che criteri seguirà il nuovo pontefice nel formare la propria squadra. Sulla dimensione spirituale della religione cattolica vi segnalo qui una collana curata da Roberto Righetto per l'editore Lindau, che si intitola Le Beatitudini, in cui due pensatori si confrontano su ciascuna delle 8 beatitudini appunto rese famose dal Nuovo Testamento. E sono usciti 2 nuovi volumi con nomi spesso noti e popolari. Luigi Ciotti e Salvatore Natoli discutono su beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati, 102 pagine, 13,50 euro. Sergio Givone e Remo Bodei discutono su beati i miti perché avranno in eredità la terra, 86 pagine, 13 euro. Ricordo solo da quest'ultimo volume le parole di Bodei sulla mitezza, nelle quali egli riprende l'insegnamento di un grande filosofo laico, cioè Norberto Bobbio. Ricorda infatti Bodei, riprendendo Bobbio, che la mitezza è certo una virtù debole, ma non è la virtù dei deboli. Gli opposti della mitezza sono l'arroganza, in quanto esagerata concezione dei propri meriti che giustifica l'abuso di potere, l'altezzosità, il dominio e l'aggressività. La mitezza non è una virtù politica, conclude Bodei, anzi la storia e la politica vivono in un mondo macchiato dal sangue, dalla violenza e dal veleno dell'odio, per cui, dice Bobbio alla conclusione del suo volume, la mitezza è l'antitesi della violenza. E a proposito di management, vi ricordo il titolo di un libretto molto significativo dovuto a uno dei più celebri imprenditori e manager del Novecento italiano, e cioè Adriano Olivetti. di cui Edizioni di Comunità, che è la casa editrice che era stata fondata dallo stesso Olivetti, pubblica un pamphlet molto interessante, formato da due discorsi ai lavoratori Olivetti degli impianti a Pozzuoli, questo discorso del 1955, e a Ivrea del 1954. Il libro si intitola appunto Ai lavoratori, 54 pagine, 6 euro. Olivetti, come ricorderete, fu un imprenditore visionario, lungimirante, animato dal desiderio di costruire un capitalismo diverso. Anzi, a Pozzuoli spiegò che il tentativo sociale della fabbrica Olivetti risponde a una semplice idea: creare un'impresa di tipo nuovo, al di là del socialismo e del capitalismo, già che i tempi avvertono con urgenza che nelle forme estreme in cui i due termini della questione sociale sono posti, l'uno contro l'altro, non riescono a risolvere i problemi dell'uomo e della società moderna. E perciò Olivetti in questo discorso ribadisce che la società deve credere nei valori spirituali, nei valori della scienza, nei valori dell'arte, nei valori della cultura, nel fatto che gli ideali di giustizia non possono essere straniati dalle contese ancora ineliminate tra capitale e lavoro. E nel discorso di Ivrea fa anche Olivetti un riferimento alla religione quando osserva, per esempio, che Gesù si presentò agli abitanti di Nazaret e al mondo che lo attendeva come figlio di falegname fabbro. Il cristianesimo, riscattando la schiavitù dell'uomo, fu principio di una autentica rivoluzione. Insomma, delle parole che bene illustrano la straordinaria novità nel panorama imprenditoriale che fu rappresentata dalla Olivetti di Adriano Olivetti. L'espressione di una cultura altrettanto minoritaria e misconosciuta è Piero Gobetti, il martire liberale antifascista morto nel 1926, di cui le edizioni dell'Asino ripropongono opportunamente un'antologia di scritti tra il 1918 e il 1925, si intitola La rivoluzione italiana, 256 pagine, 15 euro. Il curatore Pietro Polito vuole fare qui un po' di giustizia di molti stereotipi, per esempio vuole discutere l'autentico luogo comune secondo il quale l'originalità di Gobetti starebbe nell'incontro con Gramsci. No, dice Polito, l'elemento caratterizzante del percorso gobettiano sta nella sua appartenenza alla storia del liberalismo, di cui il gobettianesimo è una versione radicale ma conseguente e coerente. E quindi seguiamo le tappe del pensiero di Gobetti, identificate sempre nel rapporto appunto con l'evoluzione del pensiero dello studioso a proposito del liberalismo. Egli, dice Polito, è liberale nei quattro sensi fondamentali della dottrina: l'immanentismo, il laicismo, il liberismo e il garantismo. Così è da liberale che Gobetti giudica il comunismo quando scrive che il movimento comunista torinese negli anni 1918-1920 si presenta con un'organicità di pensiero, una serietà di intenzioni che suscitano meraviglia e interesse anche in un avversario. E nell'ultima lettera, scritta appunto poco prima della bastonatura che gli costerà la vita da parte dei fascisti, Gobetti rilancia la sua appassionata fiducia in una nuova classe dirigente per l'Italia fatta di persone che sanno di essere minoranza, scrive, numericamente, ma incutono rispetto anche al più agguerrito nemico. Tra le illusioni universali il cervello di questi uomini funziona. La folla e il successo non hanno prestigio sulla loro volontà di dirittura, sul loro animo non servile. Ultimi arrivi. Vi presento oggi una nuova formula editoriale che è stata presentata dall'editore Clichy, il quale pubblica famosi testi classici in un supporto che non è il libro tradizionale, ma assomiglia semmai al giornale, al quotidiano. Sono 8 pagine in carta povera, in grande formato. Ogni edizione costa 1 euro ed è ispirato a un modello che ebbe un enorme successo nella Germania del secondo dopoguerra. Quel modello si chiamava i libri Ro-Ro-Ro e questo è il titolo della collana di Clichy, nella quale troviamo i primi titoli, che sono Le notti bianche di Dostoevsky, La leggenda del santo bevitore di Roth, Cuore di tenebre di Conrad, Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde di Stevenson. Ognuno di questi fascicoli è di 8 pagine, tranne Cuore di tenebre di Conrad, che arriva a 12 pagine. Di Joseph Conrad segnalo che Adelphi ha ripubblicato Il caso, sono 400 pagine, 20 euro, tradotto da Richard Ambrosini. Questo libro del 13, che fu il primo, forse l'unico grande successo popolare dello scrittore in vita, che narra la storia di una ragazza di buona famiglia improvvisamente ritrovatasi sul lastrico. Poi un titolo di narrativa italiana di Ginevra Bompiani, L'incantato, è pubblicato da Et al, 138 pagine, 13 euro, che ripropone 4 racconti che l'autrice così presenta. uno un'educazione alla cura, se volete, alla paternità, uno un'educazione alla morte, uno alla solitudine e l'ultimo è un'educazione sentimentale. Un altro libro nel quale il caso gioca un ruolo importante è il romanzo di Raffaello Mastronardo, si intitola La scommessa, per gioco per destino, pubblicato da Tea, 312 pagine, 13 euro, dove troviamo un amore sbocciato quasi per caso che sconvolge la vita dei protagonisti in una Puglia di moda. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo un titolo per sensibilizzare i giovani lettori al problema e al tema dell'acqua, è una storia lieto fine di Chiara Carminati con le illustrazioni di Pia Valentini, se si intitola L'acqua e il mistero di Maripure, pubblicato da Fatatrack, 16,90 euro. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione e Pietro Lacorte in regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it dove potete riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.